di quella sciocca donna. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Ero ormai troppo grande per l'aula della prozia del signor Wopsle. La mia istruzione sotto l'egida di quella sciocca donna ebbe così termine. Nella mia brama di cognizioni proposi al signor Wopsle di accordarmi il favore di alcune briciole intellettuali, cosa a cui egli gentilmente accondiscese. Ma quando constatai che egli voleva fare di me null'altro che una comparsa di teatro, da contraddire ed abbracciare, e ricoprire di lacrime e tormentare, e afferrare, pugnalare e malmenare in ogni modo, ben presto rinunciai a quel genere di istruzione, non prima però che il signor Wopsle, nella sua furia poetica, mi avesse ben bene pestato. Tutto quanto imparavo, cercavo di insegnarlo a Joe. Questa affermazione torna tanto a mia lode che in coscienza non posso lasciarla senza spiegazione. Volevo rendere Joe meno ignorante e rozzo, perché potesse essere più degno della mia compagnia e meno esposto alle critiche di Estella. La vecchia batteria vicino alla palude era il nostro luogo di studio, e una lavagna rotta e un pezzetto di gesso costituivano i mezzi di istruzione, cui Joe aggiungeva sempre pipa e tabacco. Non ricordo che Joe rammentasse qualcosa da una domenica all'altra, o che sotto il mio insegnamento imparasse una sola cosa. Pure egli fumava la pipa alla batteria con un'aria assai più sagace che in qualsiasi altro luogo, anzi, con l'aria di un dotto, come se fosse convinto di fare dei progressi immensi. Caro uomo, spero che ne fosse realmente convinto. Una domenica, mentre Joe, che si stava godendo la sua pipa, si era vantato di essere terribilmente ottuso, che io avevo rinunciato a cavarne qualcosa per quel giorno, mi sdraiai per un poco sulla trincea, il mento appoggiato alla mano, ravvisando tracce della signorina e di Estella in tutto quanto mi stava dinanzi, cielo e acqua, finché non mi decisi a un tratto ad esprimere un pensiero che da tempo mi perseguitava. «Joe», dissi, «non pensi che dovrei fare una visita alla signorina Havisham?» «Beh, Pip», replicò Joe, ponderando la cosa, «a che scopo?» «A che scopo, Joe? A che scopo si fanno le visite?» «Forse ci sono delle visite per cui si può fare questa domanda, Pip. Ma quanto a far visita alla signorina, potrebbe credere che tu vuoi qualcosa, che ti aspetti qualcosa da lei. Non pensi che potrei dirle che non voglio niente, Joe?» «Lo potresti, vecchio mio, e lei potrebbe crederti, come potrebbe anche non crederti.» «Ma Joe!» «Sì, ragazzo mio. Ormai è già quasi un anno che faccio l'apprendista, e da quando sono stato assunto non ho mai ringraziato la signorina, né ho chiesto sue notizie, ho dato segno di ricordarla.» «È vero, Pip, e a meno che tu non le voglia presentare un bell'insieme di 4 ferri da cavallo, e vorrei dire che anche un bell'insieme di questo tipo potrebbe non essere adatto come regalo, data la totale mancanza di zoccoli. Non intendevo un ricordo di quel genere, Joe. Non intendevo un regalo. Ma Joe si era messo in testa l'idea di un regalo e ci doveva lavorare sopra. O anche potresti forgiarle una nuova catena per la porta d'ingresso. Oppure 12 dozzine di chiodi a vite, buoni per tutti gli usi. O qualche articoletto di fantasia, come un forchettone per il suo pane tostato del mattino, o una graticola per far cuocere una ringa, o roba simile.» «Non penso affatto a regali, Joe», lo interruppi. «No, Pip», Joe assentì come se tutto il tempo avesse sostenuto il contrario. «E quello che ti dico è che hai ragione, Pip.» «Sì, Joe, ma io volevo dire invece un'altra cosa. Siccome al momento non c'è molto lavoro, se tu mi dessi una mezza vacanza domani, penso che andrei in città a far visita alla signorina East Havisham.» «Il quale suo nome», disse Joe gravemente, «non è East Havisham, Pip, a meno che non sia stata ribattezzata.» «Per farla breve, Joe pensava che se io pensavo che andava bene, lo pensava anche lui, ma insistette nel pattuire, qualora io non fossi stato ricevuto cordialmente o incoraggiato a ripetere una visita che non era ispirata da altri scopi, ma semplicemente un atto di gratitudine per un favore ricevuto, che questo viaggetto di prova non sarebbe stato seguito da altri. Ed io promisi di attenermi al patto. Ora Joe aveva un garzone, pagato a settimana, di nome Orlick. Costui sosteneva che il suo nome di battesimo era Dolge, cosa chiaramente impossibile, ma dato il suo carattere oltremodo ostinato, io penso che non tanto fosse vittima a tal riguardo della propria immaginazione, ma che avesse volutamente imposto quel nome a tutto il villaggio per fare un affronto all'intelligenza generale. Era un individuo dalle spalle larghe, dinoccolato, dal colorito scuro, dotato di grande forza, che non aveva mai fretta e camminava sempre ciondolando. Si sarebbe detto addirittura che non venisse mai di proposito al lavoro, ma così, quasi per caso. E quando andava a mangiare ai Tre Allegri Barcaioli, o lasciava la cucina la sera, si allontanava sempre curvo, come un Caino o un ebreo errante, e pareva non avesse nessuna idea di dove fosse diretto e nessuna intenzione di tornare più da noi. Questo bisbetico garzone non aveva simpatia per me. Quando io ero molto piccolo e timido, mi aveva fatto credere che il diavolo viveva in un oscuro angolo della fucina e che egli ne era intimo amico. Inoltre, che essendo indispensabile alimentare il fuoco una volta ogni 7 anni con un ragazzo vivo, io potevo considerarmi un buon combustibile. Allorché ero diventato apprendista di Joe, si era forse rafforzato in lui il sospetto che io l'avrei soppiantato e quindi l'antipatia era aumentata. Non che dicesse o facesse mai qualcosa che denotasse un'ostilità aperta, ma avevo notato che egli dirigeva sempre le scintille nella mia direzione ed ogni volta che cantavamo Vecchio Clem si univa a noi fuori tempo. Dolge Orlick era al lavoro e presente il giorno dopo, quando rammentai a Joe la mia mezza vacanza. Sul momento non disse nulla, perché lui e Joe avevano fra le mani in quel momento un pezzo di ferro rovente ed io ero al mantice. Ma subito dopo, appoggiandosi al suo martello, disse: «Via, padrone! Di certo non farete un favore a uno soltanto di noi. Se il giovane Pippi avrà una mezza vacanza, fate altrettanto per il vecchio Orlick». Suppongo che fosse sui 25 anni, ma di solito parlava di se stesso come di una persona anziana. «Beh, e che te ne farai di una mezza vacanza se te la do?» «Che me ne farò io? E che se ne farà lui? Ne farò altrettanto io quanto ne farà lui», disse Orlick. «Quanto a Pip andrà in città», spiegò Joe. «Ebbene allora, quanto al vecchio Orlick, anche lui andrà in città», ribatté quel bel tipo. «Si può andare in città anche in due, no? Mica ci deve andare uno solo!» «Non ti arrabbiare», disse Joe. «Ma arrabbio finché voglio!» ringhiò Orlick. «Certa gente coi suoi viaggetti in città! Via, padrone, su! Nessun favoritismo in questa bottega! Comportatevi da uomo!» Essendosi il padrone rifiutato di discutere la cosa finché il garzone non si fosse calmato, Orlick si precipitò sulla fucina, ne trasse fuori una sbarra incandescente, mi minacciò con essa, come se volesse trafiggere il mio corpo, la brandì attorno alla mia testa, la depose sull'incudine e la martellò. Come se si trattasse di me, pensai, e le faville fossero il mio sangue sprizzante. E finalmente, dopo aver reso rovente se stesso e freddo il ferro a forza di martellate, disse di nuovo appoggiandosi al martello: «Ebbene, padrone?» «Sei calmo adesso?» domandò Joe. «Oh, sono calmissimo!» rispose brusco il vecchio Orlick. «Ebbene, siccome di solito sul lavoro fai bene come chiunque altro», decise Joe, «la mezza vacanza sia per tutti». Frattanto mia sorella s'era fermata in silenzio nel cortile a portata di orecchio Per abitudine faceva la spia ed origliava alle porte senza nessuno scrupolo e subito si affacciò a una delle finestre. «Proprio roba da per tua, sciocco!» disse a Joe. «Dare mezza vacanza a dei fannulloni come quelli! Sei davvero un riccone, parola d'onore, da sprecare il salario in questo modo! Fossi io il suo padrone!» «Vorrebbe essere la padrona di tutti noi, se potesse!» ritorse Orlick con un brutto sogghigno. «Lasciala stare!» disse Joe. «Terrai testa a tutti i piangri e tutti i matiscassassassoni!» ribatté mia sorella, incominciando a perdere le staffe. «E non potrei tener testa a dei tangheri se non sapessi tener testa al vostro padrone, che è il più tanghero dei tangheri! E non potrei tener testa ai mascalzoni senza tener testa a voi, il peggior mascalzone che ci sia fra Inghilterra e Francia messa insieme! È così?» «Siete una bisbetica maledetta, mamma Gargery!» ringhiò l'avventizio. «Se è questo che ci vuole per giudicare i mascalzoni... voi siete il miglior giudice davvero!» «Ti dico di lasciarla stare!» disse Joe. «Ah, sentitelo!» gridò mia sorella tutti insieme, urlando e battendo le mani. La fase successiva. «Sentite gli epiteti che mi dà quell'Orlick nella mia stessa casa, a me, una donna sposata, alla presenza di mio marito! Ah, ah, ah!» E qui mia sorella, dopo aver strillato e battuto le mani, si percosse il petto e le ginocchia, buttò via la cuffia, si sciolse i capelli, tutti gesti che rappresentavano le ultime fasi sul cammino della totale frenesia. Divenuta ormai con pieno successo una perfetta furia, ella si precipitò verso la porta, che fortunatamente io avevo chiuso a chiave. Che poteva fare quel disgraziato Joe, dopo che le sue interruzioni erano state ignorate, se non piantarsi dinanzi al suo operaio, chiedergli come si permetteva di intromettersi fra marito e moglie e chiedergli anche se aveva abbastanza coraggio per farsi avanti. Il vecchio Orlick comprese che la situazione non gli offriva altra alternativa che farsi avanti e si mise subito sulla difensiva. E così, senza neppure togliersi i grembiuli strinati e bruciacchiati, quei due si scagliarono l'uno contro l'altro come due giganti. Ma seppure esisteva un uomo nelle vicinanze capace di resistere a lungo a Joe, io non l'avevo mai visto. Orlick, come se non valesse molto di più del giovane pallido, fu ben presto per terra in mezzo alla polvere di carbone, e senza nessuna fretta di uscirne. Allora Joe aprì la porta, raccolse mia sorella che era caduta vicino alla finestra, priva di sensi, ma non prima di aver assistito alla lotta, credo, la portò in casa, la fece adagiare esortandola a riprendere i sensi, mentre lei continuava a divincolarsi e stringere fra le mani i capelli di Joe. Finalmente ci fu quella strana calma, quel silenzio che tengono dietro a tutti i tumulti. E con la vaga sensazione che ho sempre collegato con simili istanti di calma, ossia che fosse domenica e qualcuno fosse morto, salii in camera a cambiarmi. Quando ridiscesi trovai Joe e Orlick che spazzavano, senza altre tracce di disordine che un taglio in una narice di Orlick, non fatto certo per abbellirlo. Un boccale di birra era giunto dai tre allegri barcaioli e se lo bevevano a turno, pacificamente. La calma aveva avuto un influsso sedativo e filosofico su Joe, che mi seguì fuori in strada per dirmi quale prezioso ammonimento. «In piena tempesta e in piena bonaccia, Pip. Questa è la vita.» Con quale assurda emozione, poiché noi giudichiamo comici in un ragazzo quei sentimenti che in un uomo paiono molto seri, mi trovai di nuovo diretto dalla signorina Havisham. Non ha importanza sapere né quante volte passai e ripassai dinanzi al cancello prima di decidermi a suonare il campanello, né quante volte dibattei fra me se dovessi andarmene senza suonare, come indubbiamente avrei fatto se ne avessi avuto il tempo, per poi tornare ancora. Sarah Pocket venne al cancello, non Estella. «Come? Qui di nuovo?» ella disse. «Che vuoi?» Quando spiegai che venivo soltanto per vedere la signorina Havisham, fu chiaro che Sarah meditava di mandarmi via. Ma non volendo assumersi una simile responsabilità, mi fece entrare. E poco dopo tornò con l'asciutto messaggio che dovevo andare di sopra. Nulla era mutato e la signorina Havisham era sola. «Ebbene?» disse fissando i suoi occhi sui miei. «Spero che non vorrai niente. Non avrai niente.» «No, davvero, signorina, volevo soltanto farvi sapere che mi comporto molto bene come apprendista e che vi sono sempre molto riconoscente.» «Va, va.» Con il solito moto irrequieto delle dita. «Vieni di tanto in tanto, vieni il giorno del tuo compleanno.» «Ah!» esclamò ad un tratto voltandosi con la sedia verso di me. «Stai cercando Estella, eh?» Infatti mi ero guardato attorno e proprio cercando Estella e balbettai che speravo stesse bene. «È lontana», disse, «che impara a diventare una signora. Ben lontana di qui, più carina che mai, ammirata da tutti coloro che la vedono. Hai la sensazione di averla perduta.» Vi era una gioia tanto maligna nel tono con cui furono dette queste ultime parole ed ella scoppiò in una risata tanto sgradevole che non seppi che dire. Mi risparmiò la fatica di pensarci congedandomi. Quando il cancello venne richiuso dietro di me da Sara, con quel suo viso simile ad un guscio di noce, mi sentii più che mai insoddisfatto della mia casa e del mio mestiere e di tutto. Non ricavai altro da quella visita. Mentre stavo bighellonando per la via maestra, guardando sconsolato le vetrine e pensando a quello che avrei comprato se fossi stato un gentiluomo, chi ne uscì fuori dalla libreria se non il signor Wopsle? Egli teneva in mano la commovente tragedia di George Barnwell, per la quale aveva speso la somma di 6 pence, allo scopo di poterne riversare ogni parola sul capo di Pumblechook, con cui doveva prendere il tè. Non appena mi vide, comprese che una speciale provvidenza aveva messo sulla sua strada un povero apprendista al quale poterla leggere. Si impossessò di me e insistette perché io lo accompagnassi nel salotto di Pumblechook, ben sapendo che la mia casa sarebbe stata triste, che le notti erano buie e il camino solitario, che qualsiasi compagnia sulla strada era preferibile a non averne nessuna. Non opposi molta resistenza. Perciò ci ritrovammo sulla soglia di Pumblechook nel preciso momento in cui strade e vetrine si illuminavano. Era notte fonda quando tutto fu finito e mi avviai con il signor Wopsle verso casa. Fuori di città trovammo una nebbia pesante che scendeva fitta e bagnata. Il lampione alla barriera del Dazio era una macchia confusa e sembrava in un punto diverso dal solito. E nella nebbia i suoi raggi avevano l'aspetto di una sostanza solida. Lo stavamo osservando, dicendo che la nebbia si disperdeva col cambiare del vento da un certo lato della palude, quando incontrammo un individuo che se ne stava a spalle curve sul lato riparato dal vento della casetta del daziere. «Salute!» dicemmo e ci fermammo. «Sei tu, Orlick?» «Ah!» disse staccandosene. «Stavo a vedere se arrivava qualcuno!» «Hai fatto tardi!» osservai. Ed Orlick, com'era naturale, rispose: «E tu, allora?» «Ci siamo concessi», disse il signor Wopsle, esaltato dalla sua recente interpretazione, «ci siamo concessi, signor Orlick, una serata intellettuale.» Il vecchio Orlick brontolò come se non avesse nulla da dire in proposito, e continuammo insieme. E subito dopo gli domandai se aveva passato la sua mezza giornata di libertà passeggiando in su e in giù per la città. «Sì», disse, «tutta quanta. Ti ho seguito senza vederti, ma devo essere stato ben vicino a te. A proposito, il cannone sta tuonando di nuovo.» «Della nave prigione?» «Sì, qualche uccello deve essere scappato dalla gabbia. È dal crepuscolo che stanno sparando. Fra poco sentirete un colpo.» Infatti non avevamo fatto che pochi metri quando ci giunse il rombo ben noto, attutito dalla nebbia, e si ripercosse lungo la pianura ai lati del fiume, quasi a inseguire e minacciare i fuggiaschi. «Notte ideale per filarsela», disse Orlick. Non saprei davvero come tirar giù un uccello in volo stanotte. Arrivammo così al villaggio. Il cammino che seguivamo ci portava a passare dinanzi ai tre allegri barcaioli, che fummo assai sorpresi di trovare, erano già le 11, in una grande confusione. Il portone aperto e lumi sparsi frettolosamente per ogni dove. Il signor Wopsle entrò per informarsi sull'accaduto, pensando che un evaso fosse stato catturato, e ne uscì fuori correndo. «È successa una disgrazia!» disse senza fermarsi. «Svelto! A casa, Pip! Corriamoci tutti!» «Che c'è?» mi informai cercando di tenergli dietro, e lo stesso faceva Orlick di fianco a me. «Non ho capito bene. Pare che qualcuno sia entrato di forza in casa mentre Joe Gargery era fuori. Si pensa a dei galeotti. Qualcuno è stato aggredito e ferito.» Correvamo troppo in fretta perché fosse possibile aggiungere altro, e non ci fermammo che sulla soglia della nostra cucina. Era piena di gente. L'intero villaggio era lì o nel cortile, e c'era un medico, e c'era Joe, e c'era un gruppo di donne tutte in piedi in cucina. I curiosi si ritrassero nel vedermi, e potei così scorgere mia sorella, stesa senza conoscenza e immobile, sul nudo pavimento dove era stata scagliata da un tremendo colpo alla nuca, inferto da una mano ignota, mentre ella aveva il viso rivolto al fuoco, destinata a non andare mai più in furia, fin tanto che era la moglie di Joe. Thank you.